Il punto di Stefano Folli. Ora che anche nel calcio si è visto quanto è grande la distanza fra la Germania e il resto dell'Europa, si torna al lavoro. E il lavoro del governo italiano riguarda più che mai l'economia. La riforma del Senato e della pubblica amministrazione vanno benissimo, ma solo quando saranno davvero realizzate e avranno cambiato la vita delle persone. Fino ad allora le vere riforme che contano sono quelle che tengono i conti pubblici in ordine, tagliano il debito pubblico e, se possibile, abbassano un po' le tasse soffocanti. Renzi ne è consapevole? È quello che tutti si augurano, dal momento che la legge di stabilità, la vecchia finanziaria, sta diventando il passaggio cruciale. Bene anticiparla, se questo aiuta a mostrare anche all'Europa il volto serio e non solo propagandistico dell'Italia, purché sia chiaro che i problemi non possono essere aggirati. Il nostro paese non sarà commissariato dagli organismi internazionali, dice il Premier, cioè non sarà inadempiente, ma in questo caso dovrà essere molto determinato sui conti e non aver paura di dire la verità, anche se questo costerà una fetta di consenso.